Dai, dai, andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Nessuno di noi mai ha pensato di rimuovere l'allenatore e non lo faremo. Esclude anche così contatti o comunque avvicinamenti con Di Francesco per la stagione successiva? No, come è stato categoricamente scritto? È un'invenzione, è una pura invenzione. Noi rispettiamo Di Francesco, è un ex romanista, è un allenatore che io ho sempre seguito con simpatia, ma nessuno l'ha contattato e né lo faremo. Digne, poi evita, attenzione all'inserimento, alla conclusione splendida di Papu Gomez che porta l'Atalanta in vantaggio. Parte Dennis, Dennis, 11 metri di felicità per l'Atalanta, 2-0 all'Olimpico contro una Roma sempre più in crisi. Pjanic, finisce qui Roma-Atalanta, i fischi assordanti dell'Olimpico ad accompagnare questa seconda pesante sconfitta della Roma dopo quella di Barcellona. Già che ci so. Insomma, abbiamo voluto scherzare, eh? Abbiamo scomodato il grandissimo Alberto Sordi per questa Roma che grandissima non è. Allora, complimenti, una meraviglia. Prendete, non la Roma, eh? No, la canzone. Allora, prendete una carta meraviglia. Carta penne calamaio 800240024 perché da adesso fino alle 19 noi apriamo ufficialmente il processo a Rudy Garcia, ma alla Roma in realtà, perché Rudy Garcia è un ingranaggio di un sistema che non funziona più. Saluto subito Paolo Liguori, tifoso. Buonasera, romanista, doc, ciao. Direttore, ciao, buonasera. Ciao direttore. Abbiamo scomodato l'unico che forse può far sorridere un po' i romani oggi. Non ci hanno mai mannata quel paese, una meraviglia questa canzone qua, direttore. Bravo Giovanni. Non ho sentito la prima parte perché era molto bassa l'audio, ho sentito solo dalle vostre voci in poi. Abbiamo scomodato Alberto Sordi, te ci hanno mai mannato quel paese, per cercare di sintetizzare quello che un po' pensiamo noi, cioè che se la Roma vuole salvare la sua stagione, che è una stagione in cui la Roma deve giocare per vincere lo scudetto, perché così è nella natura delle cose, già oggi deve fare una scelta, dare una scossa, cambiare qualcosa. Oggi è perfino tardi. Se non è tardi, direttore. Oggi è perfino tardi. Scusate, siccome io seguo la Roma da 52-53 anni, no? E proprio tutte le domeniche, secondo voi quale sarebbe questa scossa? Perché sapete che i giornalisti che sono dei buontemponi, soprattutto quelli di categoria, cosa hanno pensato in questi mesi, nell'ultimo mese? Hanno pensato di trovarci un loro capro espiatorio che è Garcia. Io questa stupidaggine qua non l'ho mai pensata, ma devo dirvi anche che proprio oggi mi sono convinto che Garcia è l'ultimo dei problemi della Roma, se ci sono problemi, e secondo me ce ne sono di gravi. E dopo che voi avete fatto sentire, quella l'ho sentita. Quali sono gli altri, direttore? No, ma in ogni società che ha questo tipo di comportamento le componenti sono tre. Allora c'è un 33% di società e in questo caso per quanto riguarda la Roma un po' di più perché c'è poca società, cioè non si vede questa società. Su questo sono d'accordo. È virtuale. Poi c'è la componente. Chi prende le decisioni nella Roma, direttore? Le decisioni le prendono Baldissoni e Sabatini. Sabatini l'avete fatto sentire e ha detto due cose vere, tra l'altro. L'ho sentito pure io nell'intervista prepartita. Ha detto: intanto bisogna meritarsi di essere da Roma, e si riferiva anche alla terza componente, anche a molti giocatori. E poi ha detto che le responsabilità sono da dividere, e ha ragione, perché molte cose che riguardano per esempio l'assetto in campo, l'assetto tattico, sto parlando del fatto tecnico e quindi anche tattico della Roma, dipendono molto da decisioni che sono state prese dalla società, giocatori venduti, giocatori comprati. Sì, però direttore, quando la Roma fa oggi una partita così come quella con l'Atalanta, incomprensibile per una squadra che deve riscattarsi. Ma proprio una partita come quella dell'Atalanta ti fa pensare che così è una sciocchezza di comodo fare il processo a Garcia come si sta imbastendo a Roma da un mese. È una sciocchezza di comodo. Però mi fa anche pensare che se una squadra non riesce ad avere una scintilla, qualcosa, pensi, l'allenatore deve risponderne. Anche perché questo è un allenatore che passa per essere un motivatore. Ma poi il discorso è che non puoi cavartela dopo Barcellona, dopo che ne hai presi 6, dicendo ho fatto turnover, direttore. Ma insomma, queste sono opinioni. Io, voi mi avete chiesto la mia opinione, certo. Io l'ho detta. Voi fate parte di quelli che pensano che il problema sia Garcia, sì, sono contento per voi, lo risolverete. Garcia potrà andare via, richiameranno Andrea Zoli, non so come farà a far giocare questi giocatori, ma insomma qualcosa succederà. E se voi pensate che la tecnica dello scossone oggi nel 2016 sia quella buona, sì, può darsi, è possibile ancora che sia così. Montella spiega che sarebbe stato il candidato se non fosse andato alla Sampdoria, vi sta lì a dimostrare che non è vero, no? Sì, se c'è una società bollita, sfinita, se c'è un ambiente di giocatori preoccupato che aspetta solo il fischio finale per andare via e non più per restare attaccato, poi arriva Montella e perde due partite su due, no? Ed è un allenatore che stimo quanto Garcia, non sto parlando di una persona, non sto dicendo questo di una persona perché la voglio criticare o perché non mi è simpatico, no, assolutamente. È un bravissimo professionista come Garcia, però ci sono delle condizioni che vanno. Vi devo dire di più: tutta la campagna su Garcia dell'ultimo mese, soprattutto a Roma, è stata strumentale ed è stata molto utile per tirare su una cortina fumogena che impedisce di guardare alle altre responsabilità. C'è un giocatore comprato dalla Roma a 1 milione che in Serbia ha aperto una pizzeria. E questo giocatore è stato pagato 1 milione più 3 milioni di commissione, non è mai venuto neppure a Roma, è nel bilancio però della società. Se voi vi prendete la briga di andare a leggere, lo cerchiamo, lo trovate e poi ci scambiamo il nome, perché io non voglio querele, no. Vi dico solo che non sono un pivellino di quelli che non guarda i bilanci, di quello che non guarda le cose societarie, sono uno che si occupa di queste cose, non nel calcio, anche fuori dal calcio, e quindi i bilanci delle società le sa leggere, come vengono fatte le campagne acquisti e cessioni lo vede da 50 anni e lo vede con persone che erano molto più potenti e anche meno trasparenti di Sabatini. Aspetta, riusciamo a ritardare un attimo il traffico, c'è Garcia che sta parlando Mediaset Premium, direttore, se lo vuoi sentire con noi. Settimana brutta ovviamente, ma non penso che ci sono collegamenti, a parte che, come dico, non c'è granché da salvare stasera, non avevamo le gambe, il primo gol l'abbiamo regalato, ma questa cosa può succedere, dopo ci vuole il mentale per andare avanti. Ma non abbiamo pareggiato e allora ci siamo esposti, ma di in modo logico. Loro hanno difeso bene e noi non abbiamo fatto abbastanza per segnare, anche se le occasioni ci sono state. Sì, ha citato il primo gol che stiamo vedendo. Maurizio, su questo credo abbia... Allora, sì. Chiedo un minuto di pazienza a Paolo Liguori, perché mi interessa chiudere questo discorso, tra l'altro anche commentando quello che abbiamo sentito di Garcia, però c'è il traffico, torniamo subito dopo. Torniamo subito! Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... convocati. Allora, ripeto il numero 800 24 00 24, chiamate subito per prenotarvi al centralino. Noi siamo in onda fino alle 19, vivremo insieme anche il pre Palermo Juventus, il primo tempo della Lazio, poi domani c'è Napoli Inter, ci sono tante cose, c'è soprattutto però la caduta della Roma. Siamo con Paolo Liguori. Allora, io ho sentito Garcia prima di sentire da Paolo Liguori. A me sembra ancora troppo morbido nello spiegare. Che è competente. Io voglio capire, secondo lui, di chi è la colpa. Mi pare di capire di Sabatini, della società. Per finire il ragionamento, così vi faccio due esempi che voi conoscete bene, perché uno l'ho sentito nella vostra trasmissione con grande competenza e un altro probabilmente ci sarà stato o ci sarà lunedì, ma insomma... Allora, Milan e Juve. Partiamo dalla Juve. Ha avuto un momento drammatico. Allegri ha una posizione ancora più critica, aveva e ha avuto una posizione ancora più critica di Garcia. A un certo punto la società ha fatto quadrato, ha dato tempo di fare dei risultati e voi avete registrato bene, giustamente, avete registrato, beh, adesso bisognerebbe chiedergli scusa quasi ad Allegri per la qualificazione che ha avuto negli ottavi. Qualificazione che tra l'altro, detto tra noi, potrebbe anche prendere Garcia. Bene, l'altra questione è il Milan. Ho visto, a parte Inzaghi nella gestione precedente, ma ho visto un Mihajlovic annichilito, ma annichilito, sbandato, confuso, travolto quasi. Ma la società si è messa a quadrato, ha dato tempo a Mihajlovic di fare delle cose, degli esperimenti, di recuperare anche lui gli infortunati e Niang, eccetera. Adesso ne è uscito ieri sera con un 4-1 che, se leggete i giornali, non è un semplice risultato di vittoria. Anche il Milan ha una classifica che è comunque molto peggiore di quella della Roma. Sì, e anche 4 Mihajlovic, punti, credo. Il Milan non è competitivo. Il Milan non è competitivo. Perché questo si dice, cioè, e anche di Mihajlovic oggi c'è un riscatto. Allora, cosa è mancato a Garcia in questo mese? Nel momento difficile che certamente c'è stato, quello che tutti gli altri hanno, cioè l'appoggio della società. Ma lo stesso è stato per tanti allenatori, lo stesso è stato per Spalletti. Andatevi a rivedere le dichiarazioni con cui Spalletti andò via da Roma, rinunciando perfino al resto del contratto che aveva. Caso assolutamente inedito, clamoroso per un allenatore. E andò via la prima giornata, perché capì, qui sono solo, non ho la società da adesso fino a... Direttore, chi dovrebbe parlare adesso? Qua in questo momento, siccome ha parlato, cioè, Sabatini, Baldissone, Pallotta, chi? Siccome ha parlato Baldissoni, qui dovrebbe parlare Pallotta, ma soprattutto dovrebbe farsi vedere molto, perché secondo me questa sfiducia è subentrata anche nei giocatori, perché Garcia, l'avete sentito prima, ha detto quello che ho visto anch'io. La Roma è entrata in campo stanca, senza gambe, stanca, con le gambe molli, ha regalato l'intero primo tempo, poteva fare di più, poi ha regalato il gol, bene. Poi ha giocato 20 minuti, dopo 25 minuti di secondo tempo, che se avesse continuato poteva certamente arrivare al pareggio, si è spenta e lì è arrivato il secondo gol e zero reazione. Quindi si è spenta poi, tra l'altro, significativamente anche in uno dei suoi uomini più migliori e più rappresentativi. Il Florenzi di oggi è un po' una bandiera, no? Quello che non molla mai, un motorino inesauribile, il cacciavite svizzero, no? Cioè il coltellino svizzero, che quello che gli dici fa, che tiri fuori sempre una cosa da ogni parte, e invece si è spenta e si è esaurita. Allora mi pare, ecco, questo mi pare una cosa che mi impressiona talmente di più e mi preoccupa talmente di più, che il problema di Garcia, che io considero un tecnico competente e bravo, perché comunque c'ha dei risultati in questi 3 anni che è difficile a Roma raggiungere anche per altri allenatori nel loro complesso. Un po' di più ha fatto Capello, qualcosa di più ha fatto Lidl, ma qua stiamo parlando di due mostri sacri che se ne impipano della opinione dei giornalisti romani, navigano un milione di anni luce sopra, no? Tutti gli altri hanno fatto meno e hanno preso più schiaffi, pur essendo bravi. Mi dai una risposta flash, è ancora raddrizzabile la stagione della Roma o no? Certo, sì, è raddrizzabile. Sì. La stagione di qualsiasi giocatore di calcio e di qualsiasi squadra di calcio è sempre raddrizzabile, perché il calcio è fatto così. Però ci vogliono competenza, passione, voglia di intervenire, bisogna prendere le persone a viso aperto, bisogna prendere anche alcuni giocatori a viso aperto. Oggi praticamente uno dei peggiori in campo è stato il talento attuale della Roma, Pjanic, no? Sì, ma devo dire... Allora, se Pjanic non si muove e non aveva fatto granché neppure a Barcellona, mentre invece che per quello che è capace di fare al rientro ha dato l'animo, per dire, io i giocatori poi li vedo, so come si muovono, eccetera. Allora, se Pjanic non si muove, lì qualcosa c'è che non va, no? Sì, ma è evidente, però c'è anche, secondo me, anche, insomma, a me non hanno fatto nemmeno impazzire quelle poche dichiarazioni che abbiamo sentito adesso, dopo questo Roma-Atalanta, che per peso specifico vale quanto la sconfitta di Barcellona. Ti devo ringraziare, direttore, grazie. Ciao, direttore, Paolo Ligori. È stato molto interessante. Io ricordo un Atalanta-Roma negli spogliatoi di Bergamo, per dirvi poi su che cosa si basa la competenza, in cui con Conti, Rosella Sensi e Pradè ci tirammo un sospiro, perché se non pareggiava quella partita finiva in B, capito? E non è successo, sì, però il punto di partenza, direttore, quest'anno è diverso, insomma, tra l'altro con la Juve che ha regalato le prime 10 giornate, pensare che questa Roma non debba correre per lo scudetto secondo me è riduttivo, eh? Però il tema è aperto, 800 24 00 24, molto interessante capire, molto interessante, lo Rigore, salutiamo, eh? Sentiamo Garcia intanto ai microfoni di Sky. Ciao, direttore, grazie. Garcia, grazie, no, direttore, nel mio senso e non in altro senso. La cosa bella è che non vacilla mai, si sente l'uomo giusto per portare la Roma alle vittorie nonostante queste prestazioni così negative ravvicinate. È una brutta settimana, ma come lo dico, la qualità dei uomini è con la qualità di un gruppo, ed è dimostrare che ha la capacità di uscire di un momento brutto. Io non mollerò, sono combattivo, sono deluso, arrabbiato, perché ci vuole anche rabbia per tornare a vincere, è solo questo, ma io sono indietro dei miei giocatori, possiamo fare errori come l'abbiamo fatto regalando il primo gol sull'unico tiro dell'Atalanta in primo tempo, ma ovviamente potevamo fare meglio e dobbiamo fare meglio. Deluso e arrabbiato ma non molla questo Garcia, l'avevamo sentito prima ai microfoni di Premium. Intanto saluto Sandro Sabatini proprio da Premium, ciao Sandro. Ciao Sandro. Ciao, buonasera. Aspetta, stai lì però, Eralda da Ravenna che ci aspetta da qualche minuto. Eralda. Sì. Eccoci. Allora sono in linea. Allora volevo dire una cosa, perché quando una squadra perde danno sempre la colpa all'allenatore? Perché ne è responsabile, immagino, no? Ma io le dico una cosa, non sono ragazzi dell'oratorio, sono ragazzi che sono in campo da tanti anni, che giocano, ma hanno imparato qualcosa o non hanno imparato niente? Sì, però hanno anche, hanno anche chi dovrebbe stimolarli. Non so se hanno imparato qualcosa o non hanno imparato niente, Eralda, non lo so, però è come un dirigente d'azienda, no? Quindi se l'azienda non funziona, ti rivolgi al dirigente, al top manager, non è così? A me non piacciono le dichiarazioni di Garcia. No, mi sembra rassegnato, mi sembra incapace di dare. Ma non mi sono piaciute in diverse occasioni, compresa la serata di Barcellona. Sandro Sabatini. Questa soluzione a me non piace. Tu come metti in fila i colpevoli di questo momento della Roma? Guarda, io fino alla partita con il Barcellona Garcia lo salvavo, perché poi alla fine c'erano dei risultati che parlavano anche in suo favore. Poi ho guardato e riguardato la partita con il Barcellona, visto che ci sono delle lacune che sono responsabilità dell'allenatore, non tanto di atteggiamento, di grinta, quelle sono bischerate, come si dice in Toscana, ma proprio tattiche sui difensori che non sono in linea, fanno una linea zigzag, insomma, lì in difesa. Poi oggi ho visto effettivamente la resa totale. È vero che la Roma giocava in un ambiente assolutamente difficile, perché poi l'Olimpico quando sta zitto è peggio di quando urla, e almeno ti fa sentire, non ti mette, ti metti a carica se ti contesta, se invece sta zitto ti mette solo ansia, ed è la paura che ho visto oggi nei giocatori della Roma, è evidente. E quindi prima ero portato a difenderlo Garcia, adesso credo che sia in una situazione difficile da difendere. Ma come se ne esce? Prima Paolo Liguori difendeva Garcia dicendo è l'ultimo dei problemi, è un tecnico preparato, la colpa è della società, più di tutti, più di un terzo della colpa della società, poi ci sono i giocatori, poi certo c'è anche il tecnico. Nostra opinione, abbiamo anche lanciato via Twitter il nostro sondaggio, stanno arrivando centinaia di voti e i tifosi, immagino, della Roma per il 69% sono per l'esonero immediato di Garcia per provare a salvare la stagione. Cioè, come se ne esce? La scossa che serve è una scossa dirigenziale, tecnica? Ma io guarda, credo che tutto dipende dalla società. Ora è chiaro che io immagino quello che ha detto Paolo Liguori, perché lo incontro quasi tutti i giorni la pensa in questo modo. Se il presidente sta negli Stati Uniti, poi chi deve dare l'ultima parola è da una parola che è lontana dai fatti, è lontana dalla realtà. Questo può essere un male per tutte le cose che sono abbastanza facili da intuire, può essere anche un bene, perché magari conserva da lontano la freddezza necessaria per decidere nel miglior modo in questa situazione. Io credo che se uno guarda la classifica a oggi e fa finta di essere, di valutarla sia in campionato sia in Champions League, fa finta di valutarla, che ne so, a Ferragosto, leggendola su un giornale in anticipo che anticipa il futuro a Ferragosto, Garcia non è da esonero. Non è da esonero. Se invece uno prende la decisione sullo slancio di quello che è successo nelle ultime partite, Garcia è da esonero. E allora che cosa diventa fondamentale secondo me in questo momento? Un faccia a faccia con la squadra. vanno presi da parte o a gruppetti i giocatori, non che va fatto decidere a loro, ma gli va chiesto: voi che ne pensate di questo allenatore? Perché c'è la sensazione che si sia rotto qualcosa anche a livello di spogliatoio. Resta il fatto, Giovanni, che adesso la società Roma chi è? Cioè è Pallotta che ma sta è Sabatini, l'abbiamo sentito è prima, Sabatini parla per Pallotta. Chi è che prende le decisioni in questo momento? Cioè qual è la voce della società? È questo che non riesco a capire. Guarda, io credo che al di là delle qualifiche, perché c'è il presidente, certo, al di là delle qualifiche, un CEO americano, un italo-americano e poi Baldissoni, io credo che comunque la Roma ha un direttore generale facente funzionare a presidente, questo è Walter Sabatini, quindi credo che la decisione sarà la sua. Ok, quindi decide Sabatini. Ma e quindi sarà Sabatini a sottoporre poi al presidente l'ultima parola, penso, con un fax, con una mail, con una telefonata Skype. Volendo. Sì, certo, è ovvio, con tutte le difficoltà che comporta il fatto di avere il referente numero uno lontano 8 ore, 6 ore, quelle che sono anche di 4 ore di fuso orario di chilometri di volo. Enormità di competenze. No, secondo me c'è anche un altro tema, perché l'abbiamo letto in questi giorni, cioè il fatto che Garcia non sia esonerabile perché si porta sulle spalle uno stipendio abbastanza pesante. Forse nella mentalità americana questo c'è, perché gli americani difficilmente mandano via un allenatore, è rarissimo vederlo anche nell'NBA, nei campionati professionistici. Probabilmente non è una scelta da grande club se il problema è quello che Garcia ha uno stipendio pesante da 2 milioni e mezzo, 3, quello che gli resta, e abbiamo letto le cifre in questa settimana. Se deve restare Garcia è perché la Roma ci crede ancora, altrimenti meglio separarsi, certo, e chiuderla, certo, qui, no Sandro? Certo. Ma guarda, sugli stipendi da sopportare, poi abbiamo visto con Montella che anche lui aveva uno stipendio molto importante per la Fiorentina, poi dopo 3 mesi, la Fiorentina in pratica l'ha pagato settembre, agosto, settembre, ottobre, 3 mesi l'ha pagato anziché tutto l'anno. Sì, quindi, perché poi si piazzano gli allenatori. Ma sì, però l'abbiamo letto, Sandro, abbiamo letto anche questo. No, ma certo, no, Giovanni, ma io che lo so che l'abbiamo letto tutti. Ed è difficile però immaginare Garcia che se la spassa un anno in Costa Azzurra senza far niente, perché poi agli allenatori torna la voglia di allenare, si trova una soluzione. Io credo che i soldi siano tantissimi, un'enormità, perché sono un'enormità se ci riflettiamo, quei soldi che sono già a budget per pagare Garcia nei prossimi anni, però poi alla fine con un po' di rischio, con una piccola percentuale di rischio, sono soldi che comunque sono convinto che la Roma non dovrà pagare fino all'ultimo euro, anzi, perché comunque Garcia, adesso noi ne stiamo ragionando sullo slancio emotivo delle due figuracce batoste, i due KO che sembrano non poter far rialzare la squadra e nemmeno l'umore dei tifosi, però Garcia è un allenatore che a livello internazionale ha ancora un ha sicuramente mercato, questo è vero. Grazie Sandro. Ciao Sandro. Grazie a voi. Grazie a Sandro Sabatini. Un cordiale saluto agli amici tutti convocati weekend, al senatore Maurizio Gasparri. Allora, adesso io faccio una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Faccio un tweet. Allora, vediamo, chiocciolina a seconda dei casi, Roma Calcio. Hashtag io sto Garcia. Oh, hai capito, allora difende Garcia, che non è facile oggi, non è facile. Guardi oggi. Che buono, io glielo lo dico pure a gente. Ma questo è bello, questo è bello da parte di un tifoso oggi. Io lo dico con la massima pacatezza, sobrietà, è auspicabile fare una considerazione critica a freddo, senza esagerazioni. Ecco, glielo posso dire con pacatezza, con massima tranquillità, io lo posso dire. Ma vedi da non si può dire. Torniamo subito. 8-0-0-24-0-0-24. Non avete niente altro da fare? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Comincia. Tutti convocati. Allora, qualche notizia. Intanto, da Roma, la decisione sul futuro di Garcia verrà presa da Pallotta direttamente, ma almeno fino al Bate Borisov non ci saranno ribaltoni. Ribaltoni che invece nelle prossime ore quasi certamente ci saranno a Verona. Mandorlini oggi non parla. Mandorlini oggi non parla. Ha parlato Riccardo Bigon, direttore sportivo del Verona. Questa sera vertice con il presidente per decidere cosa fare della panchina di Mandorlini. 6 punti nelle prime 14 assomigliano quasi a una sentenza. Spiace perché Mandorlini è un amico anche di questa trasmissione, ma questa è la situazione. 800 24 00 24, aperto il nostro grande sondaggio su Garcia, esonero subito o no. Andate a cercarci anche su Twitter, siamo intorno al 70% per l'esonero subito. Prenotatevi anche per intervenire. 800 24 00 24. Marcello da Firenze, Marcello. Buonasera a tutti. Dunque, io ho sentito sia l'intervento di Liguori e ho delle mie considerazioni. Intanto credo che una grossa responsabilità sia della società, che mi sembra una società piuttosto spregiudicata nel mercato e quindi non tesa magari a tutelare i risultati sportivi ma a fare dei buoni affari. E credo che questo era quello che intendesse anche Liguori prima quando accennava al giocatore mai utilizzato e pagato con una commissione. Però la società in questa situazione ha un compito preciso: o supporta l'allenatore in maniera totale oppure lo licenzia. Cioè la società può agire, può anche aver sbagliato maniere, il mercato, però qui siamo nel mezzo della stagione. Però in questo momento il compito della società è quello di capire dove vuole andare. Quindi o supporta l'allenatore a prescindere oppure lo licenzia. Marcello, sarebbe neanche utile a questo punto. Forse sì o forse no, perché quello che si è visto in questi giorni racconta però di una parabola che non si ferma, che non si arresta in caduta. Grazie Marcello. Intanto c'è la formazione di Empoli-Lazio, vi dico che non ci sono novità rispetto a quello che avete trovato oggi sui giornali, poi dopo le diamo. Saluto Stefano Ragno e parliamo dei Milan. Milan. Di nuovo Niang, eccolo! Il 3-0 in meno di un minuto, tre volte cerca la porta, alla fine la trova. Uomo della partita! Uomo della partita! Ci spieghi quel balletto? Delle esultanze. No, era una cosa tra me, Filippo e Jeremy, perché giochiamo a Call of Duty e il personaggio di Filippi fa fare questa esistenza, ma con l'armi, io non ce l'ho l'arma, quindi ho cercato di fare senza l'arma. Sì, mi sono sentito ieri con il presidente Berlusconi, gli ho detto come mi ha detto che veniva a vedere la partita, gli ho detto guardi, per non sbagliare spogliatoio, dopo la partita viene al nostro spogliatoio, però non è venuto. E si è perso, una vittoria. Vabbè, ci saranno altre occasioni. Questo era Mihailovic ieri, 800 24 00 24. Saluto Stefano Ragno. Tra qualche istante forse vi facciamo sentire De Rossi dei microfoni di Sky. Stefano, ciao, buona serata a tutti. Era difficile per ciao, Berlusconi Stefano. Eventualmente sbagliare ieri sera spogliatoio, adesso facciamo una battuta, ma insomma, ma sì, ma soprattutto si parlava di Mihailovic, no? Sì, non Berlusconi. È normale che dopo tanti anni da giocatore soprattutto, e poi la parentesi dell'anno scorso da allenatore, dove aveva fatto veramente bene, è normale che è una maglietta, quella della Samp per Mihailovic è molto importante, che ha dato tanto a lui, e lui sicuramente l'anno scorso ha fatto qualcosa di eccezionale. Senti, credi sia fuori dal tunnel Mihailovic? Insomma, ieri abbiamo visto forse per la prima volta nella stagione un bel Milan. C'era stato quello dell'Olimpico contro la Lazio, però era una partita di ripartenza diversa. Ieri per la prima volta abbiamo visto il Milan fare la partita dall'inizio alla fine. Ma penso che sei Mihailovic, dopo tante situazioni di studio, anche perché comunque per necessità virtù ha cambiato comunque il modulo, e soprattutto perché Bonaventura l'abbiamo sempre visto che si è dovuto adattare, perché è talmente un grande giocatore che può giocare ovunque, però si sa che nelle sue posizioni ideali sono appunto partire da largo per poter poi poi accentrarsi al suo piacimento. Lo stesso Cerci, che comunque è un giocatore di fascia. È normale che la Samp di ieri è stata... Pronto, mi sentite? Sì, La Samp di ieri è stata veramente poca roba. Poca cosa, è una poca squadra cosa. Malata, secondo me, la Samp. Beh, devo dire che anche l'inizio, cioè il fatto di aver iniziato presto la stagione pensando di poter andare avanti in Coppa UEFA, sono subito usciti, e l'andamento del campionato non ha dato i frutti sperati. Adesso è un problema, secondo me. Montella, visto come pensa lui il gioco del calcio, che come faceva la Fiorentina, però con grande qualità nei giocatori che aveva in maglia viola, qui non so, secondo me non è così semplice. Però no, avrebbe bisogno di giocatori diversi. Vi chiedo 30 secondi di pazienza, abbiamo il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, prenotazioni aperte per intervenire fino alle 19. Niang indiavolato, tutti convocati. Energy. Ciao, sono Pino Insegno, in viaggio tra le imprese che guardano avanti. Presentatevi. Ken Strapper, progettiamo e produciamo stampanti 3D. Una rivoluzione. Anche nei consumi. All'inizio si stampava di notte per abbattere le spese. Ora che avete un piano energetico 3D? Sì, Sorgenia ci ha fatto diagnosi e piano ad hoc luce più gas. Adesso la notte dormo e dal cellulare controllo tutto. Per avere soluzioni innovative, le aziende del futuro scelgono Sorgenia. Cambia anche tu. Chiama l'800 920 920. Ogni energia all'impresa italiana. Energy. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Questa gestione tecnica? Ma no, non credo. Credo che forse più basso è stato l'anno scorso. Ci sono stati momenti in cui forse non perdevamo, ma ne abbiamo pareggiate tante di fila. Comunque non è una gara al momento migliore rispetto a quando andavamo mai l'anno scorso. Dobbiamo riflettere sulle nostre prestazioni e non possiamo far altro che guardare alla prossima, perché è quello poi che conta, purtroppo. Questo si dice da un po' di tempo, no? Guardiamo la prossima, lavoriamo, eccetera. Oggi si aspettava questo uno spirito combattente. Non anima dello spogliatoio della Roma dopo Roma-Atalanta 0-2. Sentiamolo. Gli ultimi 3 anni della gestione Garcia, tutti gli elementi sono a ribasso, a parte i gol fatti. Ma è un momento così, è un momento, insomma, l'ultima partita qui in casa era stato un derby, giocato bene, giocato in maniera battagliera, come hai detto tu. E quindi, insomma, questo è il momento. È stata una settimana particolare. Spero che non c'entri niente il risultato del Barcellona, che non ci abbia lasciato un po' di trambusto in testa. Però ti ripeto, sarò ripetitivo, però analizzare adesso qui, soprattutto davanti a tutti, gli errori che abbiamo fatto, fase difensiva, fase offensiva o costruzione del gioco, non so quanto sia produttivo e quanto sia importante che io lo faccia ora. Bisogna pensare a quello che dobbiamo fare dalla prossima partita, già da domani, ricominciando a lavorare tutti uniti, perché insomma l'anno scorso siamo usciti fra virgolette da questa situazione, riuscendo ad arrivare un secondo posto che poi stava sfuggendo, ci siamo riusciti proprio unendoci un pochino di più, e così dobbiamo fare. Queste le parole di De Rossi. Stefano Ragno, non so se lascia trambusto una partita come quella di Barcellona nella tua esperienza di calciatore. Fatalmente sì, Stefano. Sicuramente dopo questa partita, anche perché poi è la partita successiva, quella non molto felice di Barcellona, però è certo che la Roma deve migliorare sotto tanti aspetti. Prima giocava di ripartenza, ma giocava con dei giocatori come Jorginho e Sa, che purtroppo era anche difficile poter dare supporto a loro, perché sono talmente tanto veloci che diventa anche difficile poi seguire l'azione, no? Perciò è una squadra che è stata impostata, secondo me, male. Hanno preso i giocatori, anche lo stesso Dzeko è importante se giochi da squadra, ma se poi giochi singolarmente diventa difficile, perdi anche la forza di certi giocatori. Perciò penso che questa Roma adesso, dopo questa, va tosta, soprattutto che forse fa ancora più male, e si deve dare una regolata. Ma secondo te avrebbe un senso cacciare Garcia o no? Appunto, di chi è la responsabilità se la Roma giochi in questa maniera, se non riesce a sfruttare Dzeko, se è monocorde, perché sappiamo bene come la Roma sia brava nelle ripartenze, l'abbiamo capito 3 anni fa. però non riesce mai a fare quel salto di qualità che serve a una squadra che vuole vincere lo scudetto, no? Diciamo che prima però aveva un Totti che aveva l'occhi come cioè, aveva la visione di gioco a 360 gradi, però purtroppo Totti non è la carta d'identità pesa e con due giocatori come Gervinho e Sarà, Totti penso che fosse il giocatore più ideale per queste ripartenze, no? Però adesso c'è comunque Dzeko che è un grande giocatore. È normale che devi impostare la squadra diversamente e farla giocare meglio perché ha tutte le qualità per poterlo fare. Perciò è normale che il punto va puntato su il dito fa puntato su sull'allenatore. D'altronde i meriti comunque di prendere l'allenatore se la squadra gioca bene, come se ne è presi per tanti anni di seguito, perché comunque è stata la sfortuna di Garcia, è stata l'anno dello scudetto della Juventus dove ha fatto 100 passapunti loro idem, dove hanno trovato una Juve irresistibile, se no avrebbe sicuramente meritato anche in quella stagione. Sì, però insomma, questo è un campionato diverso, quella Juve lì. Oggi mi sorprende un po' sentire De Rossi parlare così anche, Stefano, di resa. Infatti io sono stato uno all'inizio dell'anno, uno di quelli che aveva dato comunque la vincente la Roma, proprio per gli acquisti fatti, anche perché impostando un gioco come potrebbe fare la Roma, perché di qualità con Paratella è forse l'unica partita che ha meritato veramente, ha fatto vedere come si gioca il calcio, è stata contro la Juventus, però poi è stato un regredire partita dopo partita, perciò questo è un problema che poi se anche in Champions ha sempre subito, l'approccio è sempre stato negativo, sempre a subire, no? Perciò una squadra con certi talenti in squadra non può subire come ha fatto la Roma. Non può continuare a sbagliare approccio. Ricordo anche i primi raccapriccianti 20 minuti di Bologna, poi dopo ce la si è presa con Rocchi e con la pioggia, ma i primi 20 minuti della Roma a Bologna erano stati un campanello allarme. Grazie Stefano Eragno. Ciao Stefano. Sì, grazie a voi. Ciao. Grazie Stefano Eragno. Allora, avevo promesso le formazioni Empoli-Lazio, non ci sono novità. Nella Lazio c'è Djordjevic punta unica con Milinkovic e Savic dietro, e poi c'è la linea dei quattro difensori, basta Maurizio Ete, Radu a centrocampo, Candreva, Biglia, Parole, Lulic. Nell'Empoli Livai e Maccarone con Saponara trequartista. Si comincia alle 18, tra qualche minuto ve lo racconteremo. Buonasera, dopo il GR. Buonasera. Oh, Presidente, buonasera. È arrivato Berlusconi. Sono arrivato. Consumo non ha sbagliato spogliatoio, come ha detto ieri Mihajlovic. Anche se è San Siro. Quindi, il nostro è un allenatore positivo, molto coeso, e nel quale ho sempre avuto massima fiducia. Belle parole, e anzi, gli faccio i miei più coesi. Finalmente sentiti i complimenti, gli faccio i complimenti. Balla. Bravo Montella. No, Mihajlovic. Scusatemi, ho sbagliato. Balla colossale. Ho sbagliato. Sì. Bravo Donadoni. No, Mihajlovic, Sinisa Mihajlovic. Ma sì, ma io stavo scherzando. Esatto. Quando io faccio la formazione è chiaro che si vince sempre. Si figuri. Un cazzo se ne frega. Si figuri, gente, mi ascolti. Certo. Se ho convinto Gheddafi a usare il bidet, vuole che lui convinco si inizia ad usare uno schema di gioco. Ci fermiamo. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend 800 24 00 24. Ci becchiamo fra poco, tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Saramini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Convocati. E ci hanno mai mandato a quel paese, Siamo tutti delusi, tutti arrabbiati contro di noi, soprattutto con la nostra prestazione. La panchina in questi casi diventa sempre l'allenatore un po' il capro espiatorio. Com'è la situazione? È la regola del gioco, questo la conosco. Io ho altre battaglie da affrontare, la prima battaglia è di vincere la prossima partita di campionato, ovviamente. Abbiamo giocato una partita così come avrebbe potuto giocarla un convalescente. Eravamo convalescenti da una sconfitta difficilissima da metabolizzare come quella di Barcellona. È andata molto male, è un momento che non è sbagliato definire drammatico, ma dobbiamo sopportarlo, ognuno assumendosi una quota di responsabilità, perché ognuno ha una quota di responsabilità. Io invece vado sola, solo senza di me. Questi sono Garcia e Sabatini. Oggi, dopo la caduta della Roma contro l'Atalanta, intanto sta cadendo anche l'altra romana, la Lazio, sotto ad Empoli 1-0, il gol al quinto minuto di Tonelli in tuffo di testa. Domanda che stiamo ponendo dalle 17 è: cosa serve alla Roma, chi è in cima alla lista delle responsabilità? Serve o no la scossa, ad esempio mandar via Garcia subito? C'è un amico che scrive via WhatsApp al 349 238 6666: state facendo il processo, almeno date la vostra sentenza. La mia sentenza è che serve una scossa, e questa scossa, visto che la società non si può cambiare, a maggior ragione la squadra, però, Giovanni, è che abbiamo che sentito si cambia l'attore, eh? Beh, è normale, sarebbe normale in situazioni come questa cambiare allenatore, ma sarebbe stato normale anche mercoledì mattina, dopo averne presi 6 dal Barcellona, che è il Barcellona, ma in quel modo non puoi giocare. Sabatini, però, se è la voce della società, perché così dicono, Sabatini è la voce della società, ha confermato Garcia, la situazione è drammatica, ma andiamo avanti con lui. Quindi c'è scritto, questo è il verdetto, noi possiamo fare poco. C'è scritto un prete, un sacerdote, al 349-238-6666, ringraziandoci dell'imitazione del nostro Andro Mercù di Berlusconi. Di Berlusconi. Un sacerdote. Presidente, allora, Berlusconi. Presidente, come vede. Beh, io non posso che ringraziare, mi fa particolarmente sono piacere, voti, sono voti, sicuro. Sono voti che arrivano. Esattamente, quello che pensavo. Gilberto da Monza, dalla provincia di Monza. Gilberto. Buonasera, innanzitutto buonasera. Un saluto. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Scusate. Buonasera. Un saluto a tutti i giornalisti che si impegnano ogni fine settimana a darci le loro elucubrazioni sul mondo del calcio. Sì, ma mi perdoni, io sono presidente, non sono giornalista. Mi dica tutto. Elucubrazioni, è bello. Benissimo. Complicato, ma lei, bello. Lei è un tifoso? Gioco. Lei è un tifoso del nostro Milan, suppongo. Io del calcio ne assumo ogni giorno con il latte e basta. Poi per il resto lo considero veramente una perdita di tempo. Lei non è coeso e non è neanche molto positivo. Una mela marcia. Una mela marcia. Esattamente, allora, non volevo dirlo. Citando il grande Silvio, potrei dire: lei non è compus sui. Ma lasciamo perdere. Guardi che il greco non lo deve usare in trasmissione, perché è poco popolare. Era latino. Ad ogni buon conto. Faccio perdere un po' di tempo, Gilberto. Dai. Allora, ad ogni buon conto volevo dire questo. Ma se si cambia l'allenatore, no? Sì. In un paese sindacalizzato come quello che è l'Italia, voi ne sapete dalla vostra importante emittente, cambia anche la squadra dopo? Oppure no. I mammoni che ci sono lì a giocare, a ciucciarsi il pollice, a prendere un sacco di soldi, a fare un cazzo dalla mattina alla sera, scusate, cambiano dopo che l'allenatore è cambiato? Però magari è più coesa. Sì. È più coesa. Può risentirne, giusto? Ma io penso che sia facile prendersela con un allenatore che è un professionista anche lui, piuttosto che prendersela con 12 o quanti sono nella squadra di calcio a giocare. Sì, 11, 11. 11, sì, vabbè, 11, 12 non fa niente. Che sostanzialmente sono lì a giocare, a fare i professionisti, perché se stessimo parlando della Pro Loco, della squadretta dell'oratorio, eccetera eccetera, va bene, ma da 11 professionisti che non sanno come organizzarsi sul campo, a me sembra un po', come dire, pretestuoso, dilatorio e defatigante imputare tutta la responsabilità a un singolo uomo. Va bene, sì, no, guarda che voleva intervenire anche il presidente così, della Proloco, sta per intervenire, ha chiesto la parola. Però, insomma, cioè, se facciamo la realtà, Gilberto, intanto lo ringraziamo, così, certo, sul discorso generale ha ragione. Poi però la verità è che nel calcio, ma non nel calcio, negli sport in generale, tu cambi l'allenatore perché non ne puoi cambiare 15 titolari, sì, di serve, cioè, non puoi cambiare tutti, c'è modo, modo. Per esempio, secondo me il Verona fa benissimo a confermare Mandorlini. Sì, ma non lo conferma. Corini però, o Del Neri? Corini o Del Neri sono i due nomi che girano. Finora l'ha difeso e ha fatto benissimo, perché, perché in quel caso, cioè, si tratta di capire da che parte rema la squadra. Sì, però se le cose poi non funzionano, e nella Roma, l'ha detto Sabatini, il momento è drammatico ed è evidente che non funzionano, rischi di buttare via la stagione, probabilmente un ragionamento lo devi fare. Ma ripeto, la Roma non lo farà, non lo farà almeno fino alla partita contro il Bate Borisov. Pallotta arriverà in Italia, sarà lui a decidere. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Maradona si porta sul fondo, il traversone verso il centro, va a liberare Bergomi, poi Alemão, alla meglio su Berti, Alemão, Alemão in area di rigore, Careca, gol! Careca, gol! Gol del Napoli con Careca! Tu sei una cosa grande per me. Il servizio per Maradona, il controllo, Maradona! E sono due! Il raddoppio del Napoli con Diego Armando Maradona! Una cosa camuffata, innamorata. Naturalmente nell'Inter Bremer e Matteo Sferri sono ottimi tiratori. E gol! In questo caso è Matteo che va alla conclusione, destro di filiale. Vorria sapere una cosa da te. E c'è il fischio finale, c'è il fischio finale che sancisce la meritatissima, direi, vittoria dell'Inter nello scudetto 1989. Tu sei una cosa grande per me. Allora, dai, allora è qualcosa che è veramente sempre di ripetibile e sempre più meraviglioso. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. E lo merita. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo per fare due chiacchiere su Napoli-Inter di domani sera. Siamo tornati negli anni 80, quando Napoli-Inter contava lo scudetto. Forse anche domani è così, o forse no. Oggi Sarri e Mancini hanno fatto di tutto per dire che è troppo presto, anche se, parere mio, in realtà la risposta che domani sera arriverà sarà una risposta importante. Allora, saluto subito Pierluigi Pardo, ciao Piero. Ciao. So essere a Palermo. Saluto anche Ottavio Bianchi, che in quegli anni meravigliosi, anni 80, ha fatto parte di questa storia. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io ho letto questa settimana questo paragone tra Higuain Insigne e Maradona Careca, Maradona Giordano Carnevale. Basta, non lo so, è una bestemmia o no? È domenica, Giovanni, dai, è domenica, non bestemmiamo in parrocchia. Mister, lasciamo stare. Lasciamo, bravo mister, lasciamo stare, la suma sta, come dicono a Milano. Non si può, eh? No, dai. No, il calcio... sono ottimi giocatori quelli da adesso, erano giocatori fantastici quelli di allora, sono convinto che quelli di allora potrebbero giocare anche adesso come questi potevano giocare anche allora, ma non si possono fare paragoni assolutamente. Sì, non si può ridurre tutto a numeri, perché poi le statistiche dicono questa coppia ha fatto un gol più di quell'altra nelle prime 13 giornate, la media punti di Sarri è vicina al record di... però insomma, se vuoi stare sul piano della blasfemia, sì, l'acqua insomma, santa e l'acqua minerale, ci abbiamo provato. Pier, è partita scudetto o no quella di domani? Secondo me per il Napoli sì, eh? Questo è il mio parere. Pier. Sì, sai come la penso, ormai il Napoli è da scudetto, quindi domani è partita scudetto perfettamente, perché lo dice la classifica, perché nel frattempo anche un'altra possibile rivale mi sembra che stia aspirando, ed è la Roma, ovviamente, anche se dietro lentamente il Milan, e vedremo stasera la Juve, magari con un passo più veloce la Juve si stanno riavvicinando, però la sensazione è che in questo momento siano assieme alla Fiorentina le squadre sicuramente più complete, sicuramente più forti, e se guardiamo la rosa di quelle tre, con tutto rispetto per la Fiorentina, mi sembrano le due che hanno qualcosa in più come quantità anche di giocatori per poter durare. Poi sai, lo diciamo dall'inizio della stagione, il Napoli ha un andamento impressionante, l'Inter merita un rispetto clamoroso, è un po' più difficile da decifrare perché alcune partite le ha vinte senza brillare, ma questo potrebbe essere addirittura un'ulteriore cosa positiva per l'Inter, perché aver vinto delle partite senza aver brillato e avendo trovato ogni volta la chiave diversa, sempre sul filo, no, di un gol del pareggio che avrebbe potuto per esempio rovinare i tanti 1-0 dell'inizio della stagione, denota una forza psicologica della squadra di Mancini che secondo me va tenuta con grande attenzione. Ma proprio per questo, Bianchi, cioè per questo io dico, domani secondo me è partita scudetto per il Napoli, perché viene da questo momento straordinario, però a questo punto ha bisogno anche di renderlo concreto in uno scontro diretto contro una grande. Forse l'Inter si può permettere, non lo so io. Ottavio, prego. Ma secondo me è una partita importante, non da scudetto, perché è un po' eccessivo parlare di scudetto dopo 13 domeniche. Oltretutto mi sembra che i dati e i risultati in campo esprimano il fatto che sono le due squadre migliori in questo momento. Una, come diceva prima Pardo, è la faccenda che il Napoli sta giocando molto bene da squadra, ha ottenuto questi risultati in un cammino diverso da quello dell'Inter, ma indubbiamente sono le squadre più attrezzate. Non dimentichiamo che l'Inter ha anche un grosso vantaggio, quello di non fare coppe, si può preparare una partita ogni settimana, più si va avanti i microtraumi si fanno sentire, loro li possono recuperare con facilità. Non dimentichiamo che vincere così in maniera non eclatante, però vincere è importante. In questo momento mi sembra che la squadra che stia esprimendo il gioco migliore in tutti i reparti, con autoconvinzione, con tutto questo, mi sembra il Napoli. Però la partita è aperta, anche perché queste due squadre mi sa che siano quelle che si stanno staccando, perché visto la Roma, penso che il risultato della Roma di oggi e la prestazione della Roma di questa settimana abbiano dei problemi grossi. Non so se sia il momento definitivo, come tutti gli anni, che si stacchino nella volata finale. Sì, la Roma fa sempre questa cosa, magari parte anche bene, ma poi a un certo punto si perde via. È giusto mettere in discussione Garcia. Ottavio Bianchi, è giusto mettere in discussione adesso, in questa situazione, l'allenatore, oppure è una forzatura? Ma io sono sempre contrario ai cambi di allenatori, anche perché hanno studiato all'inizio dell'anno degli obiettivi da raggiungere. Noi non sappiamo nella stanza di Bottoni cosa si siano detti. Indubbiamente sappiamo dal di fuori che è una squadra che sono 3 anni che è attrezzata per vincere lo scudetto, poi non riesce a vincerlo, ha queste partite così paradossali, perché perdere a 6-1 in quella maniera per una grande squadra lascia veramente delle ferite enormi, perché anche a livello di immagine, io mi ricordo i miei vecchi allenatori quando, purtroppo tanti anni fa, ed erano bravi e facevano questo mestiere, erano preoccupati solo di due cose: dalla goleada e dagli infortuni muscolari. Sì, perché dalla goleada poi è difficile rialzarsi. Poi magari, Pier, oggi parliamo così di Garcia, un anno fa parlavamo così di Benitez, poi l'anno prossimo alla Roma arriva uno come Sarri quest'anno nel Napoli e scopri che forse l'organico che già c'è è un organico più importante di quello che sta rendendo. Ma io ti dico una cosa sulla Roma. Io penso che ci sia un po' una sopravvalutazione. È un'ottima squadra, sicuramente non è una squadra che uno si può aspettare che perda 2-0 in casa contro l'Atalanta, però secondo me un po' di sopravvalutazione c'è, voglio dire, nel senso, Digne è un giocatore preso così all'ultimo momento da fuori, abbiamo visto che cosa ha combinato oggi. Rudiger è un ragazzino, Maicon sappiamo che ci sta e non ci sta, Sorosidis è un giocatore abbastanza mediocre. Insomma, la Roma ha delle grandi aree di forza, alcune delle quali anche insperate, nel senso che Giorginio per esempio doveva partire. In questo momento non è fortunata perché ha tantissimi infortuni che certamente pesano, insomma, gli infortuni di Giorginio e Salah stanno pesando tantissimo, è inutile girarci attorno. Però insomma, secondo me c'è un po' di sopravvalutazione complessiva. Detto questo, io credo che difficilmente, anch'io sono contrario, diciamo filosoficamente, al cambio dell'allenatore. Certo. Però secondo me, insomma, se rimane così Garcia, è difficile che Roma possa fare qualcosa di importante in questa stagione. Sì. Sinceramente, per il tipo di clima che si è creato. Certo, poi non è detto che cambiando la situazione migliori. Ecco, no, lo dimostra anche Montella, lo dimostrano i numeri di quelli che hanno cambiato fin qui. Ripetiamo, il prossimo sarà il Verona, ma probabilmente. Giovanni, ma secondo te c'è un momento, un punto, una ragione per cui è legittimo mettere in discussione la natura? Anch'io sono contrario. Ma io credo quando dà la sensazione di non avere più in mano la situazione. Esatto. Mister Bianchi, sì, c'è solo una possibilità. Esiste un momento, no, sì, in cui il momento, è giusto, secondo il mio parlarne. Punto di vista, secondo il mio punto di vista, forse io ho fatto anche di risento, ho dovuto scegliere anche gli allenatori e anche difenderli. Addirittura una volta, quando hanno mandato via un allenatore, io mi ho dato le dimissioni da direttore generale. Questo non. Sono veramente contrario ai cambi così, sì, solo perché la piazza. Chiaro, questo è chiaro. Però ci sono dei momenti quando una dirigenza vede che la squadra non risponde più alle sollecitazioni dell'allenatore, e questo è indispensabile il cambio. Però c'è anche da fare un però. Spesso e volentieri per delegittimare un allenatore ci vogliono dei 30 e 50 secondi. Ormai al giorno d'oggi basta un piffero qualsiasi che tra procuratori, tra capi tifosi, tra giornalisti, l'allenatore in un momento viene delegittimato. Ecco perché è molto ma molto importante in tutti i momenti, ma in questi momenti la società deve prendersi le responsabilità. E spesso e volentieri quando dicono abbiamo riconfermato l'allenatore, non è altro che il preavviso di licenziamento. Una squadra, una società vera non deve neanche mettere in discussione o lo licenzi o stai zitti. Sì, sono d'accordo. Faccio l'ultima domanda. Perfetto. A Ottavio Bianchi, poi. Perfetto. Lo ringraziamo. Invece sull'Inter, a parte che siamo un po' annoiati dal dibattito, non so se tu Pier condividi sull'estetica del gioco, insomma Mancini fa benissimo a fregarsene e a tirare dritto con la sua Inter che difende. Bianchi, è da scudetto o no l'Inter? Perché Mancini continua a dire di no, però passando le domeniche, passando le vittorie, viene anche il sospetto che un po' stia giocando a nascondersi. Ma Mancini fa il suo mestiere, guai se non facesse questo, anche perché solo lui sa il valore della sua squadra. Sì, la validità di un allenatore è quello che non ha un'idea in testa. Io gioco con questo sistema, con questa formula di gioco, e allora comperatemi tutti questi giocatori perché io ho solo questo. Solitamente un allenatore analizza i giocatori a disposizione e deve essere in grado di attuare qualsiasi sistema e formula di gioco, e poi in base ai giocatori che ha li mette in campo e attua il sistema di gioco più conveniente. Cosa vuol dire più conveniente? Quello che ti fa prendere, quello che ti fa vincere, che ti fa vincere. E il resto sono solo chiacchiere da bar, e spesso e volentieri vengono coinvolti anche quelli che dovrebbero stare zitti. Parlare il lunedì è sempre molto facile. Io tutti quelli che parlano il lunedì possono parlare giustamente i tifosi, ma chi vive di calcio dovrebbe avere un pochino più attenzione. C'è chi si sta divertendo invece su Mancini, l'abbiamo visto anche questa settimana, anche senza fare nomi. Grazie Ottavio Bianchi. Di nuovo, buona grazie serata. Mister. Grazie Ottavio Bianchi. Pier, ti faccio sentire solo una battuta di oggi di Mancini a proposito di questo tema sulla qualità e non la qualità del gioco dell'Inter. È riduttivo parlare di qualità contro forza, qualità Napoli e forza Inter. No, io credo che anche l'Inter ha un po' di qualità, forse è una squadra un po' diversa dal Napoli, però ha dei giocatori con della qualità che credo che possano ancora migliorarla e mettersi in condizione di dare alla squadra quello che poi ci servirà in futuro. Questo Mancini mi sembra che sia un po' infastidito anche lui, Pier, di questo discorso sulla qualità dell'Inter. Qualcosina c'è, come piedi buoni. Da un certo punto di vista togliere qualcosa in termini di qualità all'Inter significa empatizzare e aumentare i meriti dell'allenatore, quindi da un certo punto di vista deve essere lusingato ancora di più che si sottolinea il fatto che la squadra non ha per esempio un Higuain o un Insigne. L'Inter ha una rosa molto profonda, come diceva giustamente il mister, non ha le coppe, potrebbe avere dei vantaggi e per ora è riuscito a fare tutto benissimo. C'è ovviamente anche molto Handanovic, che però è parte del gioco, insomma, non è che è un fattore esogeno, fa parte assolutamente della rosa dell'Inter. L'Inter lo paga, sta rispondendo alla grande. È ovvio che dal punto di vista dell'estetica, del divertimento, il Napoli si è accostato di più, ma ci sono strade molto diverse per vincere. Da questo punto di vista, veramente, lo diciamo ormai da parecchie settimane, tendiamo a sopravvalutare la categoria estetica perché ci piace, perché ci diverte e perché ci sembra impossibile che la squadra più bella non sia anche la più forte. Delle volte invece la squadra più forte è quella che fa giocare. Si vince anche e soprattutto con l'equilibrio. Vi devo fermare perché c'è il meteo. 800 24 00 24, c'è già Ambrogio da Monza. Torniamo subito. In un campionato italiano in cui c'è tantissima pretattica tra voi allenatori, ci sono delle settimane di spionaggi industriali assurdi per sapere la formazione dell'altro. Neanche Putin ed Erdogan fanno questo. Ma siamo a quei livelli, Tutti convocati. Convocati. Perché lei cambia spesso? Credo che sia giusto così per noi in questo momento, ma non lo faccio solo io, lo fanno tanti allenatori che hanno una rosa. Oggi le rose sono fatte dei 23-24 giocatori, se è una squadra abbastanza equilibrata, è come la nostra che sta crescendo, quindi non abbiamo certezze al 100%. Il fatto di avere tutti i giocatori pronti e che quando giocano comunque danno il loro apporto e fanno tanto, credo che questo sia importante per quello che riguarda noi. Questo ancora Mancini. Intanto Empoli 1 Lazio 0, siamo al 37esimo minuto del primo tempo, decide il gol di Tonelli di testa al quinto minuto. A proposito di testa, pochi minuti fa è rimasto a lungo a terra Georgevic per un taglio sulla fronte, è stato medicato per il momento, continua a giocare. Ambrogio da Monza. Sì, buonasera, innanzitutto complimenti per il programma. Grazie. Io ho grande ammirazione per Gente e Pardo. Io avevo due domande. La prima era su Garcia: se lui, che è quarto in classifica, vicino alla zona, allo scudetto, è più o meno qualificato in Champions, rischia l'esonero? La Juve, che invece ha perso lo scudetto e rischia di non arrivare in Champions, cosa dovrebbe fare? Sì, Juve che stasera potrebbe essere a tre punti dalla Roma. Perso, vediamo. Sì, per la cronaca, Pier, c'è la top 5. Avrei letto anche tu, no? La successione eventuale di Garcia: Mazzarri, Lippi, Prandelli, Spalletti, Capello. Non era difficile. Sì, beh, è chiaro adesso così, però mi sembra un tema giornalistico. Io non credo che la situazione precipiti. Io penso che Garcia avrà tempo fino al Bate Borisov. Poi è chiaro che se non dovesse perdere in casa col Bate Borisov, può comunque non qualificarsi. Poi la situazione sarebbe diversa, anche se in realtà da un certo punto di vista, se vuoi dare una scossa, dovresti darla adesso, no? E in generale sulla Juve non sono d'accordissimo, e penso appunto che la Juve, a parte che se stasera vince va a meno 3 dalla Roma e a tutti gli scontri diretti in casa, quindi comincia un campionato completamente nuovo, ma poi la differenza la fa il segno più o il segno meno, la tendenza, diciamo, quasi come fossero dei titoli di borsa. Cioè la Roma è in calo, la Juve è in crescita, questo mi sembra abbastanza evidente, ma magari fra un mese sarà il contrario, però in questo momento è così. Fra un mese è Natale, nessuno sale, nessuno scende. Cioè, quello è il momento in cui ci si ferma e si guarda il tabellone. Nel senso che il momento è questo. Il momento è questo, ma soprattutto voglio dire, la Juve, se togliamo, che fanno parte del gioco, ci mancherebbe altro, se togliamo l'inizio della stagione, avrebbe una classifica completamente diversa. Insomma, la Juve ha fatto un punto nelle prime giornate, ha avuto una partenza lentissima per colpe anche dell'allenatore, non dico che l'allenatore sia esente da colpe, Però insomma, francamente, oggi esonerare Allegri o pensare all'esonero di Allegri mi sembra una follia. Ma mi sembrava una follia anche prima, Pierluigi. Sì, anche a me. Era una follia anche prima. Però, ragazzi, questa è la situazione oggi. Parliamo della Juve un attimo. Bisogna giocare meglio tecnicamente, bisogna aumentare la velocità di passaggio, bisogna sbagliare meno, perché l'altra sera abbiamo sbagliato molto tra il 35esimo, tra il 30esimo e il 45esimo, e questo non ci combina assolutamente niente sui moduli 3 e 5, è solo che quando ha la palla nei piedi deve giocare meglio. Questo Allegri ieri, a proposito di rendimento diverso della Juve, oggi sulla stampa Max Nerozzi analizzava proprio la stagione delle le 19 partite fin qui della Juve tra campionato e Champions, spaccate in due, con questo cambio di marcia anche della Juventus nella seconda metà fin qui della stagione. Ciao Max. Ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. Ma posso dire una cosa? Ma Allegri nelle parole, nello sguardo, nella voce è uno che ci crede. Cioè io vedo Garcia parlare e insomma, mi fa tenerezza, vedo Allegri parlare e mi sembra, anche l'altro giorno prima della partita di Champions, mi sembra un uomo convinto. Max? È un uomo convinto, sì, è un uomo convinto perché conosce la sua squadra e da uomo di mare secondo me fiuta anche il momento dei giocatori. Non è un caso che stia cambiando le gerarchie tra Alessandro e Evra, e soprattutto abbia avuto la forza di mettere fuori Morata, che probabilmente è l'attaccante più forte della Juve, però era un momento in cui non stava girando e lui ha cavato il meglio da Mandzukic, per esempio. A me è impressionato ieri vedere Allegri quasi anche fisicamente battere i pugni sul tavolo, e veniva da una partita vinta col Manchester City. Bravo. Garcia, l'abbiamo visto, bravo, perde due partite. Linguaggio del corpo. E insomma, sembra che non sia successo nulla. Ci confermi che resta fuori Morata anche stasera allora, Max? Guarda, io la squadra fa un po' andare allo stadio. Secondo me sì, non è ancora ufficiale, però nella riunione tecnica i favoriti erano Mandzukic e Dybala. Dopodiché, sai, con Allegri praticamente si sbaglia una formazione su due, quindi... Certo. Siamo aperti alle figuracce. Certo. No, ma ricollegandosi a quello che diceva l'ascoltatore prima, sul fatto che in questo momento Allegri non è in discussione, Allegri però è stato in discussione all'inizio della stagione, e anche quello era un paradosso considerata la stagione clamorosa che ha fatto un po' di mesi fa. Sì, era messo in discussione dalla tifoseria più che altro, con enorme rispetto nei confronti di tutto sport, che ovviamente è un giornale importantissimo per chi deve approfondire, leggere, informarsi sulla Juve, però anche il titolo di oggi però comunque che la dice lunga, no? Sul fatto che c'è una parte, adesso non me lo ricordo a memoria, ma insomma il concetto è che Allegri punta sulla Champions, preferisce la Coppa ma si stagna, una roba del genere. Cioè, non mi sembra che stia vivendo dal punto di vista mediatico una luna di miele o una bonaccia assoluta, per tornare a termini marinareschi. Sì, la domanda è perché? Perché ci sono molti, molti che lo considerano non adatto, ci sono molti che lo considerano non il miglior allenatore possibile per questa squadra, ci sono molti nostalgici di Conte, e lo posso anche capire chiaramente, perché insomma Conte è un allenatore che ha fatto. Ma io fino a un certo punto posso dirti. Sì, ci sono molti che considerano una toppa messa lì a chiudere un buco, e magari considerano così, e coinvolgiamo anche Max Nerozzi parlando del 3-5-2, che mi pare sia diventato, tornato nuovamente a essere il modulo di riferimento, Max, della Juve. È vero, io ci andrei piano sul modulo di riferimento, nel senso che Allegri preferisce giocare a 4 e quindi tira fuori il 3-5-2 quando deve fare altre cose. Detto questo, non è lo stesso 3-5-2 di Conte, perché in quello di Conte le mezze ali andavano dentro sparate come dei missili, cioè Vidal e Pogba, vabbè, non è più Vidal, però adesso c'è molto molto più palleggio, attacca in maniera diversa la Juve, e questo, che piaccia o non piaccia Allegri, è vero, la sua stagione ha sempre conosciuto un fiuto, un senso un po' più europeista, un po' meno italianista, è vero che questa Juve ce l'ha. Ma secondo te se l'è un po' presa Allegri per quello che è stato scritto sul fatto che il 3-5-2 uscisse nuovamente da una sorta di referendum dello spogliatoio? No, secondo me non se l'è presa, perché di solito non se la prende per questo genere di cose. Sbottò su Dybala, se tu ti ricordi, ma l'altro giorno quando si parlava di Morata piuttosto che di nuovo di Dybala, aveva il sorriso sulle labbra. Lui sa benissimo che i risultati contano, e i risultati adesso sono dalla sua parte. Torno da Pierre, che parlava giustamente della nostalgia di Conte. Per alcuni Conte è un allenatore strepitoso, però risultati a mano in Europa, primo anno, finale di Champions. secondo anno automaticamente qualificato. E Conte fece dei grandissimi quarti fuori con Bayern di Monaco e l'ultima stagione purtroppo la Juve uscì a Istanbul. Mm-hmm. E quindi i risultati sono questi. Ma io guarda, credo veramente che Max ha detto una cosa molto, molto giusta, cioè Conte, che ripetiamo ha i meriti principali, non fosse altro che per un discorso temporale, nel senso che senza Conte non ci sarebbe stato Allegri. È evidente che Allegri sia più un allenatore di gestione, e mentre Conte è stato un allenatore che ha costruito questa Juve. Però poi ci sono delle caratteristiche secondo me anche nel gioco di Conte, di Allegri, che rendono questa squadra per esempio più adatta per giocare in Europa, più adatta per giocare, mi sarebbe da dire. Questa squadra rispetto all'epoca di Conte ha perso un 20% o 30% del furore agonistico e dell'atteggiamento da attenzione assoluta, da martello assoluto che aveva con Conte, e magari ha guadagnato di più in termini di palleggio, in termini di un approccio alto secondo me al gioco. Non c'è un migliore o un peggiore, assolutamente. È chiaro che i meriti principali rimangono quelli di Conte, perché Conte ha costruito questa squadra. Però insomma adesso non riconoscere ad Allegri di aversi messo del suo in questi 15 mesi mi sembra veramente una cosa ingiusta, una cosa proprio intellettualmente scorretta, al di là della libertà di opinione ovviamente nei confronti di tutti. Comunque la condanna di Allegri è Palermo, Lazio fuori casa, Fiorentina in casa, Carpi fuori casa, poi si arriva a Natale. La verità è che nella situazione in cui anche stasera è il momento giusto, perché poi se hai in testa un progetto di rimonta, anche a Palermo ha soltanto un risultato che è quello della vittoria. Saluto Max Nerozzi, ciao Max, grazie, buona partita, buon lavoro. Ciao, buona serata a voi, ciao. C'è il traffico. Non so se può giocare, non so neanche se convoco Dybala, quindi per evitare altre polemiche, so domani polemiche Dybala, Dybala lascia a casa, quindi. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Nicola, come lo stanno vedendo, è un giocatore che è innamorato del calcio, gli piace giocare, si muove, hanno già visto diverse partite che prende delle botte importanti e lui cerca di rispettare questo. Per questo io dico sempre, io ho fiducia di, se loro sono i grandi protagonisti, cioè dobbiamo proteggerli. E, tutti noi, e principalmente quelli che comandano il gioco, dobbiamo averci molto più attenzione. Proprio le regole sono molto chiare, anche regole arbitrali. Ho visto le gambe, no, le ginocchia di Kalinic dopo la trasferta di Basilea. Questo Paolo Sosa, Fiorentina gioca domani alle 19 contro il Sassuolo. Formula 1. Dieci lode per tutta la squadra, veramente, lo penso sul serio. Adesso siamo una squadra. Questa arriva bene alla fine del Gran Premio di Abu Dhabi, che ci aiuta a raccontare Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Direttore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, detto che... È un po' esagerato, dai, 10 lode un po' esagerato. 10 lode un po' troppo, sì. Detto che Vettel ha rimontato dalla 15ª, 16ª posizione alla quarta, che davanti hanno, come insomma, tradizione in questa stagione, vinto le Mercedes, cosa traiamo da questo finale di stagione come spunto da portarci via per l'inverno? Prima di tutto diciamo che finalmente è finita, perché le ultime gare ci hanno veramente annoiato un po', abbiamo visto pochi sorpassi, poca battaglia, un Hamilton anestetizzato dal titolo mondiale perché non si è più visto né in qualifica né in gara, un Rosberg bravo, perfetto, bisogna capire se è più la mancanza di Hamilton soprattutto in qualifica che poi lui che si è dato la mossa dopo aver perso il mondiale, e dietro le Ferrari che forse potevano arrivare un po' più vicine in queste ultime tre gare della stagione, invece poi sono rimaste a una certa distanza senza mai impensierire il duo Mercedes. La stagione Ferrari è comunque molto positiva, non da 10 ma sicuramente almeno da 8 lo è, sì. Perché se andiamo a vedere da dove si partiva, dai due podi dell'anno scorso, perché i 16 podi e le tre vittorie di quest'anno sono un risultato sostanzioso, però non si può festeggiare più di tanto una stagione in cui tu vinci tre gare e i tuoi avversari ne vincono 16, sì, fanno allora... il doppio dei punti. Esatto. Intanto fatemi salutare, l'abbiamo recuperato per salutarlo, augurargli anche buona partita, Pierluigi. Sì, eccoci qua. Ciao, sì, buona partita. No, no, non diciamo il mondiale più divertente della, no, da profano, no, lo dico. No, no, no, soprattutto nella seconda metà, soprattutto, insomma. Grazie Piera, domani. Come sai, parto alla Ferrari. Sì, sì, tu, assolutamente. No, a proposito del bilancio della Ferrari, io credo che il voto si potrà dare l'anno prossimo, perché se questa sarà una stagione che apre addirittura un 2016 in cui la Ferrari è davvero competitiva per il mondiale, allora va bene anche un 9. Altrimenti, esattamente, beh, però grande lavoro, Umberto, grande lavoro, sì, però anche gli altri sono spariti, a parte la Mercedes. Io devo dire che sono spariti, però gli altri anni non era così, perché ti sverniciavano anche, anche gli altri, arrivavi spesso anche dietro alle Williams, rischiavi di arrivare dietro alle Red Bull. Quest'anno il secondo posto non è quasi mai stato in discussione. Sicuramente è stato fatto un grande passo avanti, ma è stato fatto anche un bel passo indietro da quelle che erano le seconde e le terze forze l'anno scorso. Però quello che conta è aver ridotto un po' il gap, ridotto e non annullato il gap con la Mercedes. Adesso bisognerà capire vedere quest'inverno quanto questo gap verrà colmato. Per una stagione come questa, se quest'anno è da 8, l'anno prossimo una stagione come questa sarebbe da 5. Possiamo dirlo, perché tre vittorie. Il voto a Vettel qual è, direttore? No, Vettel è straordinario. Vettel è anche superiore all'8, perché lui è riuscito a essere straordinario in qualifica, ancora meglio di quello che era Alonso. Molto bravo in gara, almeno a livello dell'ultimo Alonso, e soprattutto però ha fatto squadra come Alonso non è mai riuscito a fare nei suoi anni in Ferrari. Certo. Quindi il voto di Vettel è più alto di quello che io mi aspettavo, perché Vettel sì, era un buon pilota, ma non avevamo mai valutato, forse all'interno della Red Bull, quanto fosse bravo anche poi come uomo squadra. Il voto a Kimi, Kimi insufficiente. Kimi, sto scrivendo io il commento che ha pubblicato sulla Gazzetta di domani. Kimi non va oltre la sufficienza, anche se all'ultima interrogazione ha cercato di salvarsi con il terzo posto di oggi, però non va. È stato un Kimi spesso troppo in ritardo rispetto al suo compagno di squadra, spesso ha commesso tanti errori sia in qualifica che in gara. No. Sarebbe stato da tagliare se ci fosse stata un'alternativa valida libera, invece non c'erano alternative valide libere, si andrà avanti con lui anche l'anno prossimo. Io ti do solo 30 secondi, so che non è semplice, però questo è stato anche il primo anno di Marchionne, e allora non c'è solo il risultato della pista, ma anche tutto quello che ruota intorno, compreso la forza e la potenza a livello politico della Ferrari. Mi dai un voto al primo anno di Marchionne? Ma direi che, contando il fatto che Marchionne non può essere presente come lo era il presidente Montezemolo, è riuscito a ottenere i risultati che voleva. Cioè adesso ad esempio è stato fatto il no a quelli che potevano essere i motori low cost, che sarebbe stata un'assurdità in confronto a Mercedes e Ferrari. È riuscito anche all'inizio dell'anno a ottenere che si potesse lavorare sui motori di più rispetto a quello che voleva la Mercedes, quindi dal punto di vista politico i primi passi sono stati positivi, tutto lascia pensare che si continuerà di questo passo anche nei prossimi giorni, perché ci si è resi conto del peso e dell'importanza della Ferrari in un mondiale che spesso, come diceva giustamente Pardo, è stato noioso. Sì, decisamente. Grazie direttore. Ciao, direttore. Grazie a voi, ciao. Buona serata. Ciao. Grazie Umberto Zappelloni. Noi ci fermiamo qui con il primo tempo di Empoli-Lazio 1-0. Io ringrazio Claudia Schiettone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Andrea Roccabella in regia. Ringrazio Andro Mercù, Carlo Genta. Con me ci risentiamo domenica alle 17. Tutti i convocati tornano invece domani dopo il GR delle 14. Ciao. Vai ragazzi, fischia la fine, dai.